qua. La fuga del gatto. Domenica con l'ora legale solare, non mi ricordo già più. Comunque domenica 29 marzo 2020, ovviamente, boh, chissà, questi volumi sono sempre un po' un'incognita, ma penso che in definitiva ci stiamo avviando verso una tana del Wombat, la mia almeno, abbastanza definita, quindi insomma spero di non avere troppi intoppi oggi, cosa ho detto, vabbè, insomma avete capito. Ecco, seconda puntata di questo ciclo della fuga del gatto dedicato alla lettura di questo libro, vi ricorderete forse, so che siete attentissimi e attentissime, siete sempre sul pezzo, quindi insomma immagino che saprete già di cosa vi sto parlando, ma se per caso qualcuno di voi si fosse messo in ascolto soltanto adesso su Radio Wombat e fosse la prima volta che incappa nella fuga del gatto, questa è una trasmissione dedicata alla musica classica, il ripiglino della domenica pomeriggio, così lo definiamo. Ecco, e dalla la scorsa puntata ho deciso così di iniziare questa epica della fuga del gatto, ovvero la lettura di questo L'affare Vivaldi, un romanzo storico, diciamo così, di Federico Maria Sardelli, che racconta appunto le sorti, le disavventure più che altro, vedremo, dei manoscritti di Antonio Vivaldi che a un certo punto iniziarono a essere venduti, passati di mano in mano e arrivarono malamente fino ad oggi, insomma, con delle fortune, più che altro delle sfortune gigantesche. Ecco, direi che iniziamo, vi do però prima un po' di dritte, come dire, di spunti pratici. Il primo fra tutti è il nostro sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Mi raccomando, tatuatevelo addosso, così ci fate anche pubblicità e più che altro così non correte il rischio di dimenticarvelo. E su, ovviamente sul sito potete trovare il palinsesto speciale settimanale che definiamo di settimana in settimana, visti i tempi e vista l'eccezionalità di questa situazione. Ecco, abbiamo da ormai diverse settimane messo su una programmazione speciale della radio, non soltanto speciale in termini tecnici e organizzativi, perché siamo dovuti un po' correre ai ripari, perché ovviamente non c'è possibile trasmettere dalle nostre consuete tane del Wombat e quindi lo stiamo facendo da casa, organizzandoci ognuno come può. Quindi da questo punto di vista sicuramente è una situazione speciale, ma anche il palinsesto è speciale perché chiaramente stiamo cercando di tenervi aggiornati e aggiornate sugli sviluppi della situazione e stiamo cercando di fornire quanti più spunti critici che possano aiutare nella lettura di questa realtà. In più stiamo anche così, cosa che non mi sento di mettere in fondo alla lista, ma anzi come cosa altrettanto importante, cercando di tenervi compagnia e di tenere unito un po' il legame tra esseri umani, che insomma purtroppo non potendosi toccare e vedere fisicamente hanno bisogno quantomeno di poter continuare a comunicare e magari farlo attraverso con dei modi degni. Ecco, insomma, quindi il nostro palinsesto speciale lo trovate in home page e vedrete che insomma ci sono contributi che oltretutto potete anche mandare, anzi siamo super felici se ce li mandate, tra l'altro stanno continuando ad arrivare molto frequentemente playlist, racconti di come vi vivete la prigionia, spunti critici, insomma un po' tutto quello che volete, letture di libri, letture di racconti, contributi, insomma, che pensate possano essere interessanti o che semplicemente vi va di mandare. Quindi vi do gli ultimi due spunti che sono il pad con cui potete interagire con noi durante le dirette, lo trovate in home page del sito appunto e basta che cliccate sul link e vi ritrovate subito in un pub dove un pub, magari vi piacerebbe, no? In un pad dove potete interagire con noi. E poi l'altro è la messaggeria vocale, questo strumento veramente avanzato, ecco, di un certo spessore, strumento che vi permette di lasciarci dei messaggi vocali con un po' quello che vi va di dirci, ecco, magari non proprio insulti e bestemmie e basta, ma magari dei racconti di cosa fate nella vostra quarantena, di cosa vedete dalla finestra, oppure anche spunti critici, appunto, e letture interessanti. Bene, basta, basta, basta così e iniziamo subito con un po' di questo libro, appunto la lettura oggi del secondo e terzo capitolo, ma prima, se mi riesce, perché oggi cioè, è tutto molto più facile, ma insomma fino a un certo punto, iniziamo con un primo veloce brano musicale. Come immaginerete, tutta la colonna sonora di questa lettura è incentrata su Vivaldi, ovviamente, e quest'oggi vi propongo il Magnificat di Vivaldi, RV 610, Magnificat in Sol minore. Però se non alzo il volume. Castello da Passano, Occimiano nel Monferrato, autunno 1922. Dite a donna Francesca di venire. Obbedisco, signor Marchese. Ah, e portatemi un altro cuscino, è ancora acqua, mi pare che mi bruci ogni cosa. Alma serviva fedelmente i coniugi d'Orazio da 17 anni e gli si spezzava il cuore a vedere don Marcello ridotto in quello stato. Affrettò il passo percorrendo il lungo corridoio scuro che conduceva alla sala grande e di lì allo studio, dove la marchesa stava rimettendo stancamente in ordine una montagna di carte con gli affari di famiglia. Signora, don Marcello la manda a chiamare. Sta peggio? Chiese in un lampo perché ormai sapeva. Credo di sì. Smania e vuole acqua. Le due donne percorsero in fretta le sale oscure dell'antica villa rinascimentale, ora un po' trasandata da quando il marchese si era ammalato. Niente più visite, niente più pranzi né incontri. Altri tempi quando in quelle sale si incontravano Napoleone III e Vittorio Emanuele II. Erano passati 63 anni precisi da quella volta che l'imperatore raggiunse Occimiano. Fu un episodio da non crederci. L'imperatore di Francia che scende in questo microscopico borgo del Monferrato. I primi villici lo videro arrivare dal poggio su un cocchio a quattro cavalli con due battistrada davanti e due palafrenieri dietro. A fianco dello sportello imperiale cavalcava il conte di Bourgoin, mentre uno stuolo di carrozze al seguito e una scorta di usseri bianchi al gran galoppo chiudevano il corteo. Marcello e Francesca erano così orgogliosi che quell'incontro si fosse svolto in casa loro che fecero tirar su una lapide. Sua Maestà Vittorio Emanuele II, col suo quartier generale, dall'11 al 20 maggio 1859, soggiornò in questo castello, già feudo dei marchesi da Passano, conti di Occimiano, e qui si incontrò il giorno 17 maggio con Napoleone III, imperatore dei francesi, Nel cinquantenario del Risorgimento italiano, i coniugi marchesi Durazzo da Passano a perenne ricordo posero. Marcello, disse soltanto, accostandosi dolcemente al cuscino e avvicinandogli le labbra alle guance avvizzite. Lui emise un lungo sospiro con la bocca semiaperta e asciutta. Gli occhi guardavano appannati la sua vecchia consorte senza trovarla. Era per merito della sua Francesca che era potuto venire a ricrearsi lo spirito in quella bella dimora di campagna, via da Genova, dalle sue angustie, dai pettegolezzi e soprattutto dalla grettezza di suo fratello Flavio. Quella villa, portata in dote dall'amata moglie Francesca, era stata la sua rinascita, il luogo dove ritemprarsi, in mezzo alla natura e in mezzo agli amati libri. Ma erano ormai passati quasi 30 anni e non era più possibile continuare quel bel gioco, perché adesso c'era da morire. Alma lo rincalzava, gli sistemava il cuscino nuovo e gli accostava l'acqua alle labbra secche. Si tirò un poco su e, rinfrancato dall'acqua, prese a parlare. «Sto peggio, sai». «E che devi dire quando sai che il tuo amato morirà? Fingere che tutto vada ancora bene? Dirgli di sì, che è vero, che sta per morire? Parlare d'altro?» Così fece. «Stai tranquillo. Domani verrà qui Rosetta. Resterà un po' con noi. Vedrai che ti farà star meglio». «Ah», disse soltanto. «E poi stamani è tornato il notaio Rigatti. Ci ha portato quelle carte da firmare». «Ecco, le carte. Era qui il Busillis. Erano anni che ne parlavano lui e lei, fra quelle mura spesse e severe. Marcello voleva lasciare la sua grande biblioteca ai Salesiani di Borgo San Martino, il collegio che Don Bosco aveva fondato a 4 chilometri di distanza da lì. E insisteva, spiegava a Francesca che era la scelta giusta. Lei obiettava che non si fidava, quel padre rettore non le piaceva per niente. Lui andava su tutte le furie, replicava che non era una questione di questo o quel rettore, era l'istituzione che contava, era la Chiesa che nei secoli aveva salvato e tramandato il sapere. Insomma, la questione era sempre stata rovente. Perché lui aveva un amore speciale per quei libri e per quei manoscritti. Li aveva portati via da Genova dopo che suo padre volle dividere in due la grande biblioteca di famiglia. L'altra metà toccò a suo fratello Flavio, che rimase là e col quale ormai non si parlavano più. L'ultima discussione sulle sorti di quella benedetta biblioteca l'ebbero il mese prima, quando Marcello aveva ancora le forze per parlare e arrabbiarsi. Non ci fu verso. Lì, presente il notaio, volle confermare la sua volontà di lasciare tutto ai Salesiani. Francesca gli disse sottovoce che quei preti gliel'avrebbero rivenduta subito. Lui si infuriò davanti a tutti, colpì il tavolo con uno schiaffo e si mise a raccontare del furto che avevano subito i Farsetti a Mirabello, poche colline a ovest dalla loro villa. I ladri avevano portato via tutti i libri antichi e tempo dopo i volumi erano rispuntati fuori a un'asta in Inghilterra. Barbari! Lasciarli al nipote di Genova, a Giuseppe Maria, il figlio di suo fratello, Flavio. Peggio che mai. A quello non gli importava proprio nulla dei libri e dei manoscritti. Teneva la sua biblioteca in totale abbandono. Per carità, quasi meglio i ladri. No, la biblioteca andava conservata integra, tramandata con cura. Basta, solo i Salesiani. Fine della discussione. Marcello biascicò qualcosa con un filo di voce. Ormai le parole si intuivano appena. Parlava del testamento, della biblioteca, ormai era cosa fatta. Lo sapeva, non c'era più neanche da discutere. Era sereno, basta parlare. Cominciava a sudare e a mancargli la voce. Francesca gli passò il fazzoletto sulla fronte e gli disse soltanto: «Va tutto bene, Marcello, adesso riposati, ti abbasso il lume». «No, fammi portare il catalogo», balbettò quasi afono. E sprofondò nel cuscino già in zuppo di sudore, privo di forze per aver detto soltanto quelle poche parole. Dopo qualche minuto Alma ricomparve col catalogo in mano, lo trovò ad occhi chiusi e per non disturbarlo glielo appoggiò sul comodino, scansando delicatamente la caraffa dell'acqua e il portapillole d'argento. Il catalogo era un quaderno in quarto rilegato in pecora che lui stesso aveva compilato lungo quei 30 anni di soggiorno a Occimiano. Era il suo gioco, era la sua passione. Intere giornate e nottate passate in biblioteca a estrarre manoscritti, incunaboli, libri in 16°, in 8°, in 4°, in folio, a censirli, suddividerli per generi, epoche, autori o argomento, di ciascuno leggendo scrupolosamente il frontespizio, la data di pubblicazione, il luogo, lo stampatore, a prenderne preciso appunto, fino a ordinare tutte quelle centinaia di foglietti in uno schedario e poi distillarne le informazioni sul grande quaderno di pecora, il catalogo. Era il suo gioco più bello e riaprì gli occhi felice come un bambino non appena lo sentì posare sul comodino. Lo prese in mano, gli sembrò pesantissimo come non lo era mai stato, se lo poggiò in grembo e iniziò a sfogliarlo per la millesima volta, scorrendo con l'indice deformato dall'artrosi i titoli che riconosceva come vecchi amici, gli occhi velati di lacrime, il respiro sempre più rado. Quella mattina la chiesa di San Valerio era quasi invisibile, nascosta da una nebbia fredda che pizzicava il viso. Francesca, tutta avvolta in un gran mantello nero, era sorretta dalla sorella e da Alma. Una trentina di persone, non di più, le seguivano infagottate e goffe. Intorno al feretro, anch'esso quasi invisibile dietro la spessa caligine di incensi, il padre rettore allargò la toccante omelia per elencare le inarrivabili virtù del loro nobile parrocchiano. Cristiano convinto e praticante, marito vigile e amorosissimo, esecutore savio e coscienzioso dei suoi doveri morali e civili, visse una vita edificante, lasciando memoria e imperitura. Uomo di gran cuore e di buon carattere, curò religiosamente i suoi doveri di uomo zelante. Negli ultimi anni largheggiò di benevolenza paterna con i nostri confratelli, affezionatissimo all'opera salesiana. Diede nobili esempi a tutti coloro che lo conobbero, e specialmente alla famiglia, che sempre conservò nel santo timor di Dio. Zelò con fervore le opere della carità, modello di virtù cristiane, irradiò sul sentiero della vita tanta luce intellettuale e così squisito profumo di bontà che gli valsero un prestigio d'ammirazione indiscutibile. Pio, esemplare, zelantissimo del divin culto e della devozione a Maria Santissima, prodigo di tutto se stesso beneficio spirituale del prossimo. Un coro di cafoni infreddoliti straziò con enfasi due strofe del De Profundis, mentre una frotta di chierichetti andava adiuvando il complesso lavoro che il sacerdote compiva, maneggiando il turibolo fumigante attorno al morto. La cerimonia fu solenne e pomposa, degna di un così illustre defunto. Al termine, il padre rettore si intrattenne brevemente con la vedova, impartendo una speciale benedizione a lei e a tutta la sua casata. Nei giorni seguenti del collegio di San Martino, i pronostici fioccavano. Cosa sarebbe arrivato dal castello di Occimiano? Sicuramente qualcosa di grosso. I Durazzo non erano mica gli ultimi pezzenti. Il segretario del rettore, Don Gualtiero, sbirciava ogni giorno fra la posta da consegnare. Anche oggi nulla, eh? Era la ritania che si ripeteva da 8 giorni. Il nono, invece, Don Gualtiero, salì trafelato le scale del rettorato con roba grossa tra le mani, una lettera sigillata con cera lacca intestata Marchesi d'Orazzo da Passano, Occimiano. Spalancò senza bussare lo studio del rettore, che non ebbe il tempo ad arrabbiarsi perché un attimo dopo era intento ad armeggiare furiosamente di tagliacarte attorno alla missiva. Svolse i fogli, si mise a leggere in piedi, in silenzio, mentre Don Gualtiero lo guardava struggendosi d'impazienza. Man mano che gli occhi scendevano lungo il foglio, il sorriso beato si modificò in stupore, poi seriosità, infine rabbia. «Al diavolo, questo vecchio taccagno e tutti i suoi libri!» gridò sbattendo sul tavolo le carte. «Dunque allora la donazione?» balbettò il padre segretario. «Dunque il vecchio ci ha preso in giro, ecco tutto, i quattrini se l'abbiamo tenuti ben stretti per la sua famiglia, mentre a noi ci viene a ingombrare col suo ciarpame. Grazie, Marchese Illustrissimo, servi vostri umilissimi, ci prostriamo alla vostra generosità per il preziosissimo dono della vostra incomparabile biblioteca, e si inchinò polemicamente verso i fogli sparsi sul tavolo. Ma neanche un campo? Che so, un po' di guardaroba? Senti, avverti Filippo che domattina si presenti col tombarello alla villa di quei buoni cristiani a ritirare la merce. C'è solo da sperare che sia poca roba. Qui intorno di sicuro non la voglio. Avverti di fare un po' di spazio in solaio. E sta sicuro che appena posso cercherò di vendere tutto. Almeno qualche soldo ce lo tiriamo su. Ma tu guarda quel vecchio taccagno! E con una manata spazzò via i fogli del tavolo. Il mattino seguente il sagrestano Filippo si presentò al cancello della villa Durazza da Passano. Scosse più volte di seguito il campanello, già impaziente di iniziare il lavoraccio. «Che volete, buon uomo?» gli si affrettò incontro il casiere. «Son venuto a caricare i libri. E siete venuto col tombarello?» alibì il casiere. «Perché? Che c'è che non va?» ribatté Filippo con la faccia di stagno. Il casiere alzò le spalle e corse verso la villa. In capo a pochi istanti Alma raggiunse la marchesa, che stava facendo ancora colazione assieme a sua nipote Rosetta. «Signore, è arrivato adesso un uomo spedito dal collegio per caricare i libri. Però, perdonate se mi permetto, non so se sia proprio il caso di metterli là sopra. Cioè, ecco, là sopra dove? Sul tombarello. Cos'è un tombarello?» chiese Candida la marchesa. Ecco, diciamo che è un carretto, Alma non sapeva da dove cominciare, con due ruote, diciamo così. Su un carretto a due ruote? La biblioteca di mio marito su un carretto scoperto? E se piove? E l'umido, la polvere del viaggio? Il problema, signora, è un altro. È che, diciamo che... Alma si era incartata completamente. Cosa ha di strano questo carretto? Troncò la marchesa. È che lo usano per trasportare la terra, diciamo così, insomma, non vorrei mancare di rispetto. La marchesa Francesca Rappassano dei Durazzi era una donna coi piedi per terra e taglio corto. Letame? È proprio così, signora, domando perdono. Già quel padre rettore le era sempre andato di traverso, ma questo era un affronto insopportabile. Come una furia, seguita a stento dalla nipote che non riusciva a starle appresso, la marchesa attraversò tutto il portico, corse per il giardino e arrivò al cancello dove l'attendeva quel carretto basso e sudicio attaccato a un anziano cavallo da tiro. Filippo, con aria svagata, gli sedeva sulla sponda fumando la pipa. «E secondo voi io dovrei far caricare i preziosi manoscritti della nostra famiglia su questo arnese? Ma siete impazziti?» «Signora», disse spiccio il sagrestano, uomo di poche parole e di molti gotti, «io devo caricare questa roba, se la veda lei col padre rettore, a me mi basta che cominciamo presto, che sennò qua finiamo a buio». Donna Francesca rientrò in casa senza rispondere a quell'insolente, era avvilita, più che stizzita. Pensava a quanto tempo e amore il suo sposo aveva dedicato a quei volumi, pensava che avrebbero dovuto insistere di più quando Marcello prese la decisione, pensava che... ma che pensava? Ma che c'era da pensare o deliberare? La biblioteca ormai non era più sua, apparteneva ai Salesiani di Borgo San Martino. Che senso aveva pretendere riguardi adesso, se poi magari laggiù l'avrebbero potuta trattare come Dio se lo sa? Delusa, scorata, dette ordine a due uomini di casa di portar giù piano piano tutti i libri e caricarli su quell'obbrobrio ancora sudicio e puzzolente. Per trasportare l'intera biblioteca col tombarello si stimò che ci sarebbe voluta una dozzina di viaggi, o più. Thank you. si iniziò un primo carico con donna Francesca e Rosetta che osservavano avvilite dalla finestra. L'operazione richiese 2 ore buone. Invano si cercava di sistemare i volumi mantenendo una parvenza di ordine, tenendoli eretti perché non scivolassero. C'era poco da fare. Con sole 2 sponde, il tombarello imponeva un'unica sistemazione alla roba che vi fosse caricata, libri o letame che fossero, il mucchio. Durante quella prima giornata, il carretto andò su e giù da Ocimiano a Borgo per 3 volte. Erano 4 chilometri netti ogni viaggio. Ogni volta che Filippo arrivava nel cortile del collegio, tirava sull'asse di legno che inclinava il pianale e i volumi rotolavano per terra, fra la mota e i sassi, fino a formare un mucchio sempre più alto. «Ma quanta roba c'è ancora laggiù?» gli gridò il padre guardiano, preoccupato di dover someggiare fino a un solaio con la montagna che cresceva. «Tanta, accidenta a chi la vuole!» La sera scese a chiudere quella prima giornata, mentre l'umido della notte iniziava a impregnare le carte restate a riparo per secoli. Dopo 3 giorni di andirivieni, la biblioteca fu svuotata. Sull'ultimo carico, la marchesa Francesca volle aggiungere il catalogo compilato da suo marito, con la segreta e debole speranza che qualcuno lo usasse per ristabilire l'ordine perduto. Lo tenne qualche istante tra le mani, poi non ce la fece, e anche se si sentì sciocca, gli dette un bacio prima di sistemarlo amorosamente sul carretto. Ma le seccature per i poveri padri non erano finite. Ora la montagna di carta sfogliata, sudicia e inumidita che si ergeva in mezzo al cortile doveva essere espugnata. Filippo, il padre guardiano e 2 giovani chierici cominciarono i loro viaggi in soffitta, sbuffando e dandosi coraggio con scherzi e battute. Al vespro il mucchio non c'era quasi più. Camillo, un giovane magro e timido, si accorse di qualcosa rimasto in disparte fra i sassi. Era un grosso volume di formato orizzontale, rovesciato, col dorso all'insù, poggiato sui fogli aperti e spiegazzati. Si chinò a guardarlo e gli venne curiosità, ora che il lavoro era finito, di sapere che cosa aveva faticato a trasportare per tutto il pomeriggio. Girò il grosso volume, tutto sporco di fango, e lesse sul frontespizio. Cantate, tomo, terzo. Erano tutti fogli di musica, scritti con una bella grafia, ordinata e armoniosa. Per lui era arabo, ma gli piacque l'effetto che faceva. Cantata, cantata per voce e strumenti, cantata, cantata. Poi venne un titolo che lo incuriosì. Moises Deus Faraonis. Che mai poteva essere? «Che fai ancora qua? Non ti è bastato il lavoro?» Filippo era tornato alle sue spalle. «Al diavolo questa roba!» E con un calcio volò il librone fra i cespugli. Venezia, 4 agosto 1741. Nella grande austera sala del Palazzo Ducale, dove i magistrati dei censori deliberavano, una 12 di persone stava ritta col cappello in mano, parlando a bassa voce davanti agli scranni vuoti dei giudici. Finalmente entrò il procuratore Zanetti, parruccone all'antica e toga nera, e prese a leggere veloce senza neanche guardare chi gli stava davanti. Gli illustrissimi signori onorandi censori, udite le parti, invocato il nome di nostro Signor Gesù Cristo, del quale, eccetera, eccetera, dichiarano che, essendo giunto oggi lì, 4 agosto di 1741, in questa nostra dominante notizia che l'abate domino Antonio Vivaldi è morto in Vienna, dichiarano et stabiliscono che, in obbedienza dei comandamenti fatti per il presente illustrissimo magistrato, si devono bollare e porre sotto sequestro tutti gli effetti di detto quando reverendo Vivaldi nella sua casa di Calle de Favri, per cauzione dei suoi creditori, detto intimato per stridor de morti, eccetera, eccetera. Riecco quella formula, lo stridore, questa volta dei morti. Ma come fanno, se sono morti, a udire le grida che gli lanciano i vivi? Oppure sono i morti stessi a gridare e stridere? E riecco l'innaturale innesto biblico dei denti e dei morti. Letta la sentenza, il procuratore si cavò gli occhiali e disse sbrigativo: «E adesso tutti coloro che vantano crediti nei confronti del quondam reverendo Vivaldi passino ordinatamente dal segretario a denunziare le loro istanze. Il magistrato deciderà infine chi avrà ragioni e spettanze verso l'eredità del quondam Vivaldi». E sparì. Nell'anticamera dei censori, davanti al banco del segretario, sommerso di carte, il brusio diventò chiacchiericcio, poi gazzarra, mentre ciascuno spingeva e sgomitava per arrivare davanti. «Chapolin! Scrivete Antonio Chapolin! È da gennaio scorso che devo avere 44 lire a nome dei virtuosi che...» «Sì, dei virtuosi! E noi sonatori che siamo di meno? Scrivete che Francesco Carolin e Orazio Rizzoli aspettano ancora quelle 67 lire a testa! Zorzi Abbati, io devo avere dal Vivaldi le 62 lire che mi dette impegno a Zoan Fontanella per quel...» «Mi fate tutti ridere, poveretti!» «Segretario, scrivete Artabano Tosi, a me il reverendo deve ben 300 lire e 8 piccoli, mica lenticchie!» In Calle de Favri, Margherita e Zanetta non uscivano ormai quasi più. Per comprare verdure, pane e pesce, Zanetta si levava di primissimo mattino e scivolava al mercato di Rialto senza parlare con nessuno. Entrambe andavano poi ai vespri di San Giacometto, coperte col velo nero, e rientravano subito in casa. Vivevano come due vedove, eppure non si erano mai sposate, erano le vedove del fratello. L'ultimo anno l'avevano passato a girare per casa come due fantasmi, la mente sempre altrove, il cuore vuoto come l'appartamento di sopra, un'ansia e una vergogna continua per i creditori che bussavano, i monelli che schernivano, i vicini che sparlavano. Ma chi l'aveva detto che i fantasmi dovevano essere così muti e spenti? Di solito si immaginano come ombre o sagome trasparenti che aleggiano lentamente, e invece il libro del fratello li aveva immaginati in modo totalmente differente. Due volte li aveva raffigurati in musica, nei due concerti intitolati Alla notte, e tutte e due le volte aveva scritto presto fantasmi. Una furia di note, salti, frasi spezzate, agitate, dovevano essere fantasmi violenti e fulminei, forse quelli che aveva imparato a scacciare quando studiava da prete e prima di addormentarsi. Recitava l'inno «Te lucis ante terminum rerum creator poscimus, ut pro tua clemencia sis presul et custodia, procul recedant somnia e noctium fantasmata, ostemque nostrum comprime, ne polluantur corpora, presta, pater piissime, patrique compar unice, cum spirito paraclito regnans per omne saeculum. Amen». Certo, i fantasmi che aveva conosciuto Antonio erano delle furie spaventose, non delle ombre diafane. E le sue sorelle ormai sole non erano fantasmi, ma due sagomette lente e sbiadite che continuavano a vivere nel guscio vuoto del fratello, che sarebbe diventato ancora più vuoto il 15 settembre, quando il creditore Artabano Tosi, forte della sentenza del magistrato, giunse in casa per inventariare, esaminare ogni oggetto, contare, soppesare, valutare e curiosare fra le cose di Antonio, e infine espropriarle. È così che fa il tempo, ti conduce davanti agli eventi, che tu lo voglia o no. La scena. Mattino presto. Calle dei Favri. Casa del quondam reverendo Vivaldi. I personaggi. Antonio Gasparini, notaro agli ordini del magistrato, Artabano Tosi, mercante e creditore del quondam, Vivaldi Margherita, Zanetta e Francesco Vivaldi, fratelli del suddetto quondam reverendo. Cominciamo dal portico. Scrivete, notaro, 4, 5, 6, 7 pretine foderate di terlice rigata. Mica ridotte tanto bene. Poi là, più avanti, 8, 9, 10, 11, 12, controllate se ho contato bene, 12 seggiole rivestite di broccatello giallo e rosso. Guardate là che roba, tutte sciupate. Scrivete che sono vecchie. Poi questi 4 tavolinetti neri, che legno sarà? Pero, rispose a denti stretti Francesco. Scrivete pero. Notare poi, qua, venite qua, tavola ovale con coperta rigata. Aspetta, che c'è in questa cassettina qua sopra? Che c'è qua dentro? Guardateci voi, siete voi l'esaminatore di tutto, disse Francesco. Ma non sa per accidenti, che ci vuole la chiavetta forse? Ecco che s'apre, un orologio! Ah, le teneva ben nascoste le cose preziose il caro abate, eh? Un orologio è sempre meglio di nulla, dico bene notaro? Il notaro teneva gli occhi incollati sui fogli e non muoveva un muscolo del volto. Convertita in un istante la risata asinina di inagitazione, il Tosi si mise a rivoltare furiosamente quell'oggetto tra le mani. Provò a girare nei due sensi la rotella dentata, si portò l'orologio all'orecchio facendo sss a tutti i presenti che stavano già zitti. Poi lo fissò, lo scosse, girò di nuovo la rotella, picchiò le nocche sul vetro, lo guardò ansioso come se da un momento all'altro l'orologio dovesse mettersi a parlare, poi di nuovo all'orecchio, zitti tutti, occhi all'insù, lingua fra i denti per lunghi secondi e infine la sentenza. «Ma è rotto!» Porco diavolo, me lo immaginavo! Non era vero, non si immaginava un bel nulla, ma era il suo modo di argomentare se minimo aveva davanti due persone che gli facevano da pubblico. Ma non c'è nulla di buono in questa casa? Avanti, notaro, andiamo avanti. Qui a sinistra altre 5 seggiole di paglia. Guarda che roba, neanche in casa di mio nonno. E poi due quadretti con due santi. Deve essere robetta, questi non varranno neanche 5 paoli l'uno. Ah, ecco, finalmente c'è roba. Venite, notario, venite. Scrivete due armadi lunghi dipinti alla cinese. Qua c'è roba, ne sono certo. Dov'è la chiave? Abbassate la voce e portate rispetto. Noi non siamo i vostri servi. Ad ogni modo vado a cercarla. Francesco, stizzito, si infilò nella camera accanto mentre le sorelle tacevano ritte nell'angolo del portico, con gli occhi pieni di odio verso il profanatore delle cose di loro fratello. Qui non c'è molto da aprire, ma ci deve essere roba, lo sento, sennò quel furbastro del prete non li avrebbe chiusi a chiave. Allora arriva sta chiave! Intanto gli girava intorno. Li scuoteva, cercava di forzarli, infilando nelle fessure delle ante quelle dita porcine che le due zitelle guardavano col ribrezzo. Calmatevi e smettete di gridare, almeno per rispetto dei morti. Ho cercato ovunque, ma la chiave non l'ho trovata, rientrò Francesco. Alla malora quel prete, assestò una pedata a uno degli armadi. Ma non finisce qua. Oggi o domani la chiave deve saltar fuori. O troviamo il modo di aprirli, con le buone o le cattive. Avanti, notaro, passiamo avanti. Che c'è qua a sinistra? Ah, una bella camera grande, venitemi appresso. Ecco qua una tovaglia di broccatello rosso e giallo con sopra diversi scodellini da caffè. Qua, venite qua a destra, notaro. 4 quadri con cornice dorata e figure. Non sono brutti, che ne dite? Io registro, signore, non fo l'esaminatore, ad altri giudicare. Antonio Molinari, Venezia, 1655-1704. Titolo, Sansone e Dalila. Tecnica, olio su tela, centimetri 71x91. Datazione, tra l'ultimo decennio del XVII secolo e il 1704. Stato di conservazione. Tela allentata, non ben fissata al telaio, cornice lignea, dorata. Eseguito con modellazione plasticissima e morbida dalle figure e con buona maestria compositivo formale. Questa tela fa da pandan con le poco note incontro di Jefte con la figlia, l'ebbrezza di Noè, Cristo il centurione. Come in alcune opere di pittori del momento di transizione fra 600 e 700, i caratteri stilistici e tipologici del Molinari si fanno spesso confondere con quelli del Segala e del più avanzato Brusaferro. Qua c'è un altro quadro più piccolo con cornice d'oro raffigurante la beata Vergine, sempre sia lodata. E si fece un rapidissimo segno della croce. Ma ho paura che non varrà molto. E si mise a discostare la cornice dal muro per cercare di guardare il dietro della tela. Se almeno ci fosse. Aiutatemi, notaro, prendete di là, ecco. Adesso tenete fermo che io sollevo qua sotto. Per Diana, se almeno si leggesse la firma del pittore. Qua non si vede un bel nulla, è pieno di polvere. E mentre teneva la gota appiccicata alla parete per sbirciare da sotto, scoppiò in uno starnuto fragoroso. Il notaro si spaventò, mollò la presa, il quadro sbatacchiò in terra con un grido delle donne, imprecazioni di Artebano, cadenzate da altre tre starnuti ursini. Rimisero tutto a posto, masticando polvere, rivestiti dalla coltre di disprezzo che si sprigionava dagli occhi dei fratelli Vivaldi. Tempo perso, riprese il Tosi. Quadri come questi li ho visti vendere alla fiera di San Rocco per pochi ducati, tempo perso. Poi alzò la testa. Ah, guarda qua. 2, 3, 4, 5, 6 lumiere dipinte alla cinese. Ma quant'era bacucco il nostro reverendo! Le cineserie sono anticaglie che non si possono più vedere al giorno d'oggi. E rise. Ridi di questo, sanguisuga maledetta, se continui a offendere la memoria di nostro fratello ti faccio saltare tutti i denti. E in un attimo Francesco gli fu sul muso col pugno chiuso che gli schiacciava la bocca e gli deformava il naso, spingendogli la faccia a balzelli sempre più all'indietro finché non arrivò a farlo sbattere con le spalle contro la finestra. Le donne gridarono, il notaro rovesciò carta e inchiostro, si mise subito in mezzo e li divise a stento. Artabano Tosi si raggiustò il bavero con le mani e le gote che gli tremavano. Francesco lo guardava come una bestia feroce col busto tutto proteso in avanti. Stettero un interminabile minuto a guardarsi fremendo. Poi il Tosi ruppe il silenzio. Ringraziate Dio che non voglio compromettermi, se no potrei rovinarvi del tutto. Mi basterà tirar fuori da queste anticaglie i denari che mi deve quel galantuomo di vostro fratello. Avanti, notaro, scrivete. Un tavolino di legno di Giuda, un tavolino ovale di noce, altre chicchere da caffè dipinte, si può dire, alla cinese. E adesso di qua, in questo camerino, due piccoli letti singoli con due materassi piccoli. E qua che c'è? Ah, scrivete, 3 lenzuola, materassi invernali, 3 cuscini, 4 fedre, 3 coperte, 3 copriletti. E qua dietro? Ah, una branda con lenzuola e coperta di lana. Ma bene, 3 giacigli, aveva paura a dormire solo, il povero reverendo, eh? Giura al cielo che te la faccio! In un baleno Francesco gli balzò davanti alzando il pugno, ma Artabano gli bloccò il braccio. Zitoli! Vi conviene tacere, o vi denunzio al magistrato per minacce e percorse. Ho qui il notaro per testimone. Oltre a portarvi via tutta questa roba, io vi rovino, avete capito? Francesco era rosso in viso. Gli occhi schizzavano odio. Staccò di scatto il braccio dalla presa dell'orso e si lasciò dolcemente allontanare dalle sorelle che lo presero da parte e lo portarono verso la porta, bisbigliandogli qualcosa. Avanti, notaro, scrivete. 7 sedie di paglia e poi... Va bene, qui abbiamo un terzo armadio, sempre dipinto come si dice? Ah no, all'illustrissimo signor fratello non fa piacere che si dica quella parola, scrivetela voi. E anche questo chiuso a chiave. La chiave? La chiave per Dio, si mise a urlare, ma questa volta Francesco non reagì, le sorelle avevano lavorato bene. Vi prometto che la cercherò meglio, sillabò a bassa voce, quasi ossequioso il giovane Vivaldi. Andiamo avanti. Un quadretto con testa di uomo, 2 piccoli paesaggi, bruttini, ancora 6 sedie di paglia, tutta roba che vale poco. Avanti di qua, notaro, in cucina, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piatti di faenza, altri 8, ricontateli voi, semplici color crema. Qua sotto 2 secchi di rame, 1 piccolo e 1 grande, 2 candelieri di 8 ore stagnato, qua dentro vediamo coltelli col manico d'osso nero. La tortura andò avanti per un'altra ora buona, su e giù per il ripostiglio di cucina, un'altra stanza, l'andito vicino alla scala, l'ingresso, i fratelli Vivaldi sempre in disparte, il notaio a scrivere dietro a quell'omone sbuffante che rovistava, esaminava, computava. Ben fatto, notaro. E adesso, prima di salutare questa buona gente, vediamo se spuntano fuori le chiavi degli armadi. Finora non abbiamo trovato che roba vecchia e rotta, anticaglia di poco valore. Certo il reverendo si sarà portato via i vestiti e quei pochi soldi rapinati ai poveri gonzi come me, però qui manca la roba seria, manca tutte le sue musiche e i suoi strumenti. Di sicuro sono dentro gli armadi, quindi io non mi muovo da qua finché non esco con le chiavi. Mi impegno subito a trovarle, fece Francesco, ossequioso. E poi rivolto con faccia tonta alle sorelle. E se Antonio le avesse lasciate giù nel vostro appartamento, veniva spesso da voi. Animo, cerchiamo. Scesero tutti giù nella casa delle due zitelle. Francesco e le donne ad aprire ogni sportello, scatola, armadio, a vuotare bricchi, a rigirare cuscini, mentre i due stavano in piedi ad aspettare. Dopo una buona mezz'ora, altra illuminazione. Ah, ora rammento, nella mia bottega di barbiere tengo un mazzo di chiavi vecchie. E forse, tra quelle... Premise di tornare al più presto, ma il suo tempo ci sarebbe voluto. Bisognava andare in Santissimi Apostoli, Calle dei Preti, praticamente dall'altra parte della città. Il bufalo impaziente e il notaro furono fatti accomodare su una panca nel portico, mentre Francesco trascorse 2 ore di grande soddisfazione all'osteria della Stella d'Oro, sotto i portici in Rialto, e poi alla bottega di caffè di Andrea Baiega in Ruga degli Oresi. Giocò 2 partite a Primiera con Iseppo Faliero Orefice, prese tabacco, dopodiché, appena spuntato in Calle dei Fabri, si mise a correre per farsi il fiato grosso. Mi sono persa. Ah, ritrovo il segno subito. Scusate, scusate. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Salì trafelato, gridando. Eccole, le ho trovate. A voi le chiavi. E le cavò dal taschino dove erano sempre state. Artabano e il notaro, ormai spenti dalla lunga attesa e dal digiuno, si risvegliarono di colpo, si alzarono all'unisono, urtandosi con mala grazia, e via di corsa senza fiatare, verso la stanza con 2 armadi al piano di sopra. Il Tosi avanti, a grandi passi, il notaro affannato appresso. Finalmente ebbe le chiavi e fu subito addosso a uno degli armadi. Proviamo questa. Ma che? Entra ma non gira. Quest'altra. Allora, sembrerebbe... al diavolo. L'ultimo allora. Ah, finalmente, ecco che gira. Le ante si aprirono. Silenzio. Ma è vuoto. Via all'altro armadio. Prima chiave. Ma che? Seconda. Ecco. Vuoto anche questo. Qui mi si burla. Ma avanti nell'altra stanza, vediamo il terzo armadio. Seguitemi, notaro. chiave 1, mezzo improprio, chiave 2, bestemmia masticata, chiave 3, vuoto, vuoto, ma porco... magistrato contro la bestemmia. È composto questo magistrato da 3 individui cui è concesso il potere di inquisire, torturare e punire, attribuendo ai loro giudizi la stessa autorità e forza, come se fossero dall'eccelso consiglio dei 10 pronunziati. Varie sono le materie ordinarie soggetto di questa magistratura, cioè la bestemmia, delitto direttamente offensivo alla divinità, ai ministeri della religione, alla madre di Dio, ai santi. In un istante Artamanotosi si vide inchiodato per un anno a remo coi ferri ai piedi, più una multa che le 300 lire da lui pretese sarebbero serviti solo per le spese processuali. Inghiottì le ultime sillabe e continuò. Notaro, aggiunga che gli armadi sono vuoti. Non posso, illustrissimo, ho finito l'inchiostro. Farò le aggiunte all'inventario quando tornerò in ufficio. Ma la cosa non finisce qui, eh? Ah, no, se non finisce qui. Se vostro fratello reverendissimo, o voi, o tutte e due, mi avete ingannato, saranno guai seri. Quei manoscritti hanno da uscire fuori, mi appartengono, capito? Tornerò qua a cercarli, la cosa non finisce qui. E mentre quella montagna irata galoppava giù per le scale, seguito dal notaro, Francesco gli gridò dall'alto. Ah, a proposito, Tosi! Quello si bloccò al pianerottolo sottostante e voltò la testa. Francesco da sopra gli girò le spalle, si chinò verso il basso e, sollevate le falde posteriori della giacca all'insù, salutò. Non dimenticate di cercar bene anche da queste parti! Così finiva la seconda parte, la seconda puntata della lettura di Federico Maria Sardelli. Quest'oggi avevo dei mezzi tecnici migliori forse della puntata precedente, spero che lo streaming non sia saltato in continuazione, ma per fare da contraltare ovviamente il modo con cui mettevo musica era veramente farraginoso. Prometto di organizzarmi meglio la prossima volta. D'altra parte, insomma, si fa un passetto alla volta in queste regie improvvisate delle tane del Wombat. Vi lascio quindi, siamo giusto giusto in tempo per le 6, e vi lascio in particolare con la diretta speciale che parte tra un'oretta circa verso le 7 e che quest'oggi vi terrà compagnia, come in realtà quasi tutti i giorni, salvo imprevisti, dalle 7 alle 9 per l'appunto, e poi a seguire alle 10 la replica di Ururu, della puntata di questa settimana di Ururu, e alle 11 i racconti di quasi mezzanotte, a tenervi compagnia e raccontarvi la favola della buonanotte. Vi do quindi un saluto e un abbraccio a distanza e vi do appuntamento a domenica prossima alla Fuga del Gatto. Poi magari ci riascolteremo per altre trasmissioni o altri speciali nel corso della settimana, ma con la Fuga del Gatto ci risentiamo invece domenica prossima, sempre intorno alle 5. Ciao ciao!